il sabato del villaggio. E prima di dare la linea a RadioTube, allora, l'ascoltatore che ci ha raccontato di possedere il maggiorone di Lucio Dalla ci ha mandato la foto. Beh, che meraviglia! Infatti dice: lo tengo religiosamente. Veramente complimenti all'ascoltatore, perché è qualcosa di storico, targato Bologna, che meraviglia. Allora, sono le 17:06, quindi è il momento di cambiarci d'abito, cambiare la sigla, cambiare lo studio. No, quello, stiamo sempre qua, siamo sempre seduti qua. Ed è il momento di dare l'inizio di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Mi sento sola. È la terza ora del sabato del villaggio. Sono qua in studio da sola dalle 15. Vabbè, no, è arrivato Enrico Pagliarini che mi ha tenuto compagnia come ogni sabato per 20 minuti. Ma mi sento sola, sono in studio da sola. Dove sei, Daniele Bellasio? Ma dai, lo sai che una volta l'anno vado in modalità papà sciatore. Ah, che bello! Come sono le piste in questi giorni? Avete sciato? Sì, abbiamo sciato, ma ti dico solo che oggi addirittura piove, che per gli sciatori è proprio la cosa più pestifera di tutte, perché rovina le piste, rovina le sciate. Esatto, perché è brutto quel giorno lì e dici anche domani corre il rischio di essere brutto. Un però passato da sciatrice ce l'ho anch'io, remoto, ma ce l'ho. No, ma lo sapevo, lo immaginavo, perché no, ma in compenso una pessima so tutto sciatrice. Sì, di cosa? Sull'australopiteco, tu sai tutto? No, hai studiato l'australopiteco con tu? No, perché dovevamo fare i compiti. Non è che quando c'è la settimana bianca non si fanno i compiti ma di terza come? Elementare. Ma no, cioè si sta a casa, si scia, si sta col papà e basta, no? Anche i compiti. Sì, l'australopiteco è una cosa molto interessante. Sabato prossimo ti interrogo sull'australopiteco. Hai visto un po' di televisione di sfuggita in questi giorni? Perché sai che è successa una cosa importante ieri sera? Tipo? Allora, ieri sera è ricominciato Crozza. Allora, non solo perché sai che io sono molto appassionata, mi prendi sempre molto in giro per il fatto che Crozza, insomma, è una mia passione, ma il nuovo live show di Maurizio Crozza è andato in onda da ieri sera sul 9. O sulla 9, non l'abbiamo ancora capito. Allora, è andato molto bene perché ha fatto il 5,4% di share, oltre 1.400.000 spettatori. Eh sì, insomma, è stato un ottimo risultato, anche perché forse, non dico per la prima volta, ma per tanti sarà stata abbastanza una novità spingersi col telecomando fino al 9. E lo stesso Crozza, non so se l'hai sentito, insomma, si è preso un po' in giro così. Quando ero piccolo, mi ricordo, i miei amici guardavano tutti insieme la TV. Si divertivano con Rai 1, Rai 2, Rai 3. E io sentivo che qualcosa mancava proprio dentro me. Da giovinetto poi, con Berlusconi, è arrivata. Allora, Maurizio Crozza fa tutta la storia, perché da piccoli c'era la Rai e poi quando ero ragazzino è arrivata a Mediaset e poi poco a poco arriva al 9 o alla 9, perché insomma adesso va in onda su questo canale. Sentiamo com'è. E ne ho le prove, ti chiami 9. Dice sul 9, ne ho le prove, sul 9. Allora, ha fatto sul 9 il 5,5% di share. Però, se sommiamo Real Time, D-Max, Focus e Giallo, perché hanno fatto un po' tipo discorso del Presidente della Repubblica, 7,7% sul pubblico totale. Beh, devo dire però, che è un momento importante per la TV, diciamo, comunque è una cosa. Infatti Giorgio ci scrive, era reti unificate, sì, con D-Max, Focus e Giallo, e Real Time. No, Crozza ci scherza, però in effetti, come dici tu, è un momento abbastanza storico. Discovery era già una potenza, però se noi pensiamo al fatto che stiamo parlando dei canali del digitale, sono già tantissimi e ormai le major della TV italiana sul digitale sono già tante, ci aggiungiamo in satellite, è una rivoluzione incredibile, la moltiplicazione dei canali e delle reti, insomma... E poi l'italiano che è abitudinario, che deve andare avanti, cioè non di tanto, ma dal 7 almeno fino al 9. Però è un bel movimento di pollice. C'era nello spot, diceva che l'unica volta che l'aveva vista era quando si era seduto per sbaglio sul divano, sul telecomando. Esatto, esatto. Come quando giri sul 333 e il 555. Sì, perché volevi fare tre. Sì, sì, sì. Scopri perché... dei canali a volte bellissimi. Infatti, a volte il colpo di chiappa quando ti siedi, a volte è perché invece è sbagliato. Allora, ieri sera l'hashtag Fratelli di Crozza ovviamente è entrato in prima posizione nei trending topic italiani. Io non so se ne hai visto un pezzettino. Io sono impazzita per un personaggio che mi è piaciuto tantissimo. Io impazzisco per l'originale di questo personaggio, perché è un fratello interista ed è un grande giornalista. Non parliamo di calcio oggi, dai, no, non parliamo di calcio. Non oggi. Ancora, non tra ancora. Poco, tra poco. Abbiamo Dolores. Un ospite che sarà felice. Dolores, vabbè, allora lo diciamo, il personaggio, secondo me, clou ieri sera di Maurizio Crozza è stato il suo omonimo Maurizio Mannoni, che ha imitato così. Buonasera, linea notte, chi se ne fotte, bene, tutti gli avvenimenti della giornata, raccontata un po' così, la Carlone, strisciando le parole, stasera parliamo della... disoccupazione giovanile, un vero e proprio dramma, un drammone direi. Così Rampini, in America la disoccupazione vissuta come dramma. Buonasera Mannoioni. Sì. Beh, dipende molto naturalmente. Sì. Per c'è esempio a Frisco, nella West Coast, dove prevale sì. l'atteggiamento dell'establishment a sì. high class, si parla apertamente di dramma. Ah, vedi, si parla di dramma, ma non si arriva al drammone, naturalmente, non si arriva. No, non si arriva al drammone, naturalmente. Naturalmente. Beh, è più di cultura socialista il drammone. Beh, straordinario, Mannoioni. Effettivamente io, cioè... ho notato i difetti di Mannoni o le particolarità di Mannoni dopo l'imitazione, questo così, questo atteggiamento un po'. Ma non sono difetti, perché lui abbandonato sulla scrivania, un po' così. E imita anche. Ma lui ha una conduzione informale, ma molto precisa, per cui non sono difetti, la sua simpatia. Mi è piaciuto tanto. Ma sai chi è stato il protagonista di ieri sera? No, sempre ieri sera. Ieri sera è successo tutto praticamente. No, dimmi. Paolo Celata. Sai cosa ha fatto? Questa la so. Beh, dai, mostriamolo subito alla radio, alla 7. Sì, buonasera, eccoci qui davanti alla procura, al Tribunale di Roma. È appena uscito l'avvocato di Tiziano Ferro, Tiziano Renzi, il papà dell'ex premier. È una gaffe che avrei potuto fare io. Sono in quelle effetti... cose che ti sottolineano. Ti sotterri dall'imbarazzo, però ti viene, dai, Tiziano Ferro. In effetti c'è bisogno di conforto. Povero, vabbè. Che poi dopo quelle cose lì, cioè magari hai fatto un collegamento bellissimo, l'avevi preparato benissimo, la notizia c'era tutto, però poi passi fino a una settimana, pensi solo a quello. Avrà sorriso anche il direttore Mentana, dai. Di fronte a questa secondo me sì, perché veramente magari sarà stato lì da tutto il giorno, povero. La stanchezza fa fare di queste cose. Daniele, 17:15. Sì. Te lo dico perché appunto io sono in studio, tu sei... Qui in compenso ha iniziato a grandinare addirittura. Complimenti, sì. Ma sciatone proprio, accidenti, sì. Proprio, mamma mia. Facciamo una cosa, ci risentiamo tra pochissimo, traffico, e poi continuiamo a parlare di politica, anche se in maniera un po' particolare, tra poco. Radio Tube. Intanto c'è un ascoltatore su Twitter, Roberto Corti, che scrive: ah, eccoci a Crozza, come per dire, la solita. Lo so, a me piace Crozza, però da ieri sera era la prima puntata e bisognava parlare di Crozza. Daniele, si parla ancora di D'Alema però anche, Cioè? Perché pare che ieri sera abbia tirato fuori un'altra delle sue chicche. L'ascoltiamo. Quelle sue battute, quelle lì taglienti e glaciali. Mamma mia, mi fa una paura. Io avrei una paura di parlare con D'Alema, di essere affettata come un rasoio. Eccolo qua. Siccome le primarie del PD sono una specie di festival di Sanremo, non è una cosa seria, capito? No, ma Sanremo è serio. Ma querelalo, querelalo, Marta. Ma non lo querelalo. So, se io fossi in Carlo Conti ci rimarrei malissimo. Tiziano Ferro che diventa... Vabbè, ragazzi, è andata così. Mi racconti un po' invece cosa si è inventato Gazebo? Che cosa ha combinato Gazebo? Cosa c'è di divertente questa settimana, Daniele? Allora, io avevo avanzato qualche dubbio sulla scelta del nome del nuovo partito che è nato alla sinistra del PD, ma non tanto per il nome in sé, che insomma il nome non è tanto importante, ma perché sembrava un po' figlio di logiche un po' vecchie, un po' politiciste. Si chiama il nuovo movimento Articolo 1 Movimento Democratici Progressisti. Allora, Diego Bianchi, detto Zoro, a Gazebo, cogliendo anche lui qualche cosa di critico, insomma, cogliendo anche lui qualche cosa che non funzionava in questo nome, si è inventato un movimento e ha detto: scommettiamo che questo movimento in 448, per esempio sui social, avrà un successo. È uno scherzo, però segnala una cosa di un certo rilievo. Intanto che a sinistra c'è un gran subbuglio e contemporaneamente forse una voglia di unità, dall'altra parte che alcune parole tengono distanti gli elettori dagli eletti. E quindi ha inventato un movimento che si chiama... Ma lo abbiamo alla radio. Dai, mostriamolo direttamente alla radio. Mostriamo direttamente alla radio come è nato questo nuovo movimento a Gazebo. Hanno aperto il loro account e si sono dati il nome. Che ecco, tu vuoi che è una serie di scritte. Sì, è una serie, ma soprattutto cioè, c'hanno proprio un nome, un'intestazione. Si chiamano Modem Pro, che non è il nome del partito. Le rimanenze, i fondi di magazzino dei troni. Articolo 1, Modem Pro, articolo 2, coppia dei casse Logitech, articolo 3, 10 floppy disk, 1.4. Sì, a questo punto abbiamo pure l'inno. Vai Igor, vai Igor. Basta metterci le parole, qua puoi andare avanti 15 minuti, basta così, va bene. No, aspetta, ascoltiamolo un po', perché adesso ci sarà il coro, eccetera. Basta così, va bene, grazie okay. Igor. Igor, set. Grazie. Però, quanto ci siamo rimasti male noi? Molto, non ma abbiamo, anche loro secondo me ci sono rimasti male. Non abbiamo utilizzato Arturo. Arturo il era bellissimo. Nostro Arturo, gli avevamo proposto sto nome. A sto punto, secondo me, Arturo può fare molti più follower dei Modem Pro. Che ne aveva circa 6.000 in questo momento, i Modem Pro ne aveva, no? Non ho visto più il numero. E quindi la sfida è lanciata. Prego. Antonio dalla regia, lanciamo allora, abbiamo creato questo account, Movimento abbiamo Arturo. Vai avanti. Ma quanto era meglio Arturo, appunto, è la nostra breve bio, stiamo nascendo adesso, non siamo ancora nati praticamente, è scritto a febbraio 2007 e noi confidiamo che nel giro di quanto ci vogliamo mettere a raggiungere... Guarda, entro fine settimana li dobbiamo superare. Entro fine settimana li dobbiamo superare, allora io sto cercando Movimento Arturo, quanto è arrivato? Sì, ma li hanno superati. 34.541 follower in questo momento per Chiocciola Movimento Arturo, ma quanto era meglio Arturo? Allora, ma esatto. C'è qualcuno che, insomma, ha preso a cuore questa iniziativa, Daniele? Ma più che preso a cuore, io ho letto un suo tweet e mi ha incuriosito perché secondo me coglie un punto. Cioè, il tweet diceva più o meno questo: il Movimento Arturo è ovviamente uno scherzo, ma sotto c'è qualcosa di molto serio. Il tweet l'ha scritto Giuseppe Civati, più noto a tutti come Pippo Civati, fondatore del movimento Possibile, che forse abbiamo al greco. Ce l'abbiamo, buonasera Giuseppe Civati. Buonasera. Eccolo qua, allora. Direi Possibile, Movimento Arturo. Ormai ragazzi, cioè bisogna un po' adottarlo. Sta perdendo un po' il controllo, devo dire, nelle ultime ore questa iniziativa di Gazebo, perché c'è una proliferare di circoli, di mobilitazioni che sono molto virtuali, spero che alcuni se ne rendano conto, perché si stanno prendendo sul serio. Allora, dal blog di Giuseppe Civati, Civati con la W.it, il messaggio dei gazebos è occamiano. Al di là dello scherzo contiene una verità non banale. Quale? Ma è occamiano nel senso che taglia le sigle, taglia i ragionamenti, i politicismi, l'avete già detto benissimo, con Daniele ne abbiamo già parlato, insomma... chiamarsi articolo 1 Movimento Democratici e Progressisti, aggiungere un'ennesima sigla, settimana prossima arriverà il Movimento di Pisapia, la settimana prima ancora c'era stato il congresso di Sinistra Italiana che però aveva portato a una divisione tra loro e a un ripensamento di alcuni, insomma capite che c'è bisogno davvero di ridurre gli enti o quantomeno non moltiplicarli. E poi insomma c'è bisogno di una ventata di novità, insomma, non si può ricostruire la puntata precedente, questo vale anche per D'Alema, vale per tutti gli esponenti del passato prossimo che non possono pensare di tornare così come erano prima di Renzi, prima del PD, ma devono inventarsi qualcosa di nuovo anche con chi magari ci sta provando con altri strumenti, con altre modalità. Questo mi sembrava l'appello del Movimento Arturo e soprattutto la sana provocazione che hanno fatto, che stanno facendo, perché hanno superato il muro dei 30.000 follower e quindi si candidano a vincere le elezioni. Sì, Daniele. Ma no, sicuramente appunto la segnalazione di questo problema secondo me riguarda esattamente anche la rete. Civati è anche un grande esperto di comunicazione legata alla rete. Vorrei chiedergli questo, sembra come... che la sinistra abbia un po' perso la capacità di utilizzare al meglio gli strumenti più contemporanei, moderni. Insomma, gli elettori di sinistra sono vivacissimi in rete, come dimostra successo, anche se di mezzo scherzo come del Movimento Arturo. Però poi i partiti e i leader politici sembrano molto distanti, come se invece fosse solo Grillo a saper usare la rete in un certo modo. È un'analisi corretta? Mi sbaglio? Sta succedendo qualcosa? Ma secondo me è ancora più grave il problema, se posso dirlo così, nel senso che è un problema che riguarda la sostanza della politica. Tutti questi movimenti che nascono sono composti dichiaratamente da ceto politico, sia a livello nazionale che a livello locale. Parlano politici tra di loro e quindi non c'è bisogno della rete, basta un telefono e avere il numero. Non c'è bisogno di costruire una mobilitazione dal basso, nessuno lanciando questi movimenti finora ha scelto parole d'ordine che non fossero appunto quello di collocarsi in una certa posizione rispetto al Partito Democratico, per esempio i Dem Pro, no? Dicono noi andiamo via ma vogliamo ragionare col PD, rimaniamo in maggioranza con Gentiloni, sono tutti argomenti non proprio da rete e soprattutto non sono argomenti che possano mobilitare le persone, non è che uno dice non vedo l'ora di sostenere il governo Gentiloni e datemi un partito. I partiti e i movimenti politici devono nascere su questioni che scaldino il cuore, che abbiano un'ambizione forte, collettiva, anche contagiosa, e questa è anche la presa in giro dei follower che Maccox e Zoro si sono inventati, insomma che i follower devono diventare subito dei comitati, dei circoli, mi pare che ci sia un tutorial di Maccox che spiega come si apre un comitato, fa ridere, però quanti tutorial avete visto per aprire un comitato? Nella storia della politica italiana mai, perché si dà per scontato che ci sia il politico locale che lo apre lui il comitato, e forse questo è un errore di impostazione molto più serio delle battute che giustamente facciamo intorno ad Arturo e ai nomi che non ci vengono. Tra l'altro le primarie ci saranno, abbiamo appena sentito dire D'Alema che le primarie erano poco serie come il Festival di Sanremo, ma le primarie del Movimento Arturo saranno il giorno prima di quelle del PD, il 29 aprile, saranno gratis. Ci saranno solo 3 candidati, però non se ne possono aggiungere altri, che saranno appunto Maccox, Zoro, l'uomo solo al comando, e Andrea Salerno. Mi viene subito da dire, si mischia il serio con il faceto, però come lo stesso Giuseppe Civati scrive nel suo blog, c'è un po' bisogno di, insomma, di leggerezza, e per fare le cose serie Arturo è un antidoto per fare le cose serie senza prendersi troppo sul serio, per dare voce a chi non ne può più di ghirigori e di tatticismi. È anche un antidoto Civati a questo clima ultimamente pesantissimo in rete. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane insieme a Daniele Bellasio in RadioTube, con esponenti di vari schieramenti, sembra che ormai in rete sia sempre l'apocalisse, sempre la tragedia, e i toni sono sempre violentissimi. Sì, è così, però è anche perché la rete è frequentata poco e male dai politici, poco nel senso che moltissimi non ne fanno uno strumento di confronto e di presenza, e male perché molti invece lo usano proprio come oggetto contundente, penso a tutta l'epopea salviniana, insomma, lì le botte non le danno gli utenti ma le dà direttamente il leader politico, spesso con provocazioni che sono al limite come dire della consuetudine, del dialogo, del confronto, ecco, mettiamola così, non voglio far piegare questa trasmissione verso una polemica politica, però quindi c'è un problema di presenza, di uso delle parole. Io per esempio sto sulla rete molto e devo dire che sono anche spesso al riparo da queste contumeglie. Ho fatto un bellissimo confronto su Reddit, una piattaforma che vi consiglio di frequentare, lo dico agli ascoltatori perché è molto interessante, ed è stato un pomeriggio passato a domande e risposte molto civili, molto ironiche, alcune un filo sarcastiche, ma insomma con grande apertura da parte di tutti. Si può fare, ecco, questo è il messaggio. L'importante è saperlo fare e provarci con sincerità. Daniele, su Reddit capisci che noi dopo aver scoperto Medium non facciamo in tempo a scoprire Medium, usare Medium, che adesso dobbiamo usare anche Reddit. Beh, l'avevo sentito, com'è, però mostra la capacità di starci sulla rete, non soltanto sì, di usarla. Sì. Daniele, abbiamo ancora un paio di minuti, a te l'ultima domanda. Ma non lo so, dunque Civati ha partecipato alle primarie l'ultima volta contro Renzi, era nel Partito Democratico e poi è uscito. Nel corso poi dei mesi e degli anni altri hanno fatto la stessa scelta. Gliel'ho detto anche in una telefonata precedente per organizzare questa trasmissione. Non le viene voglia di dire a molti, beh, io ve l'avevo detto? No, già passo per quello che lo dice sempre, perché ha una capacità profetica un po' per la sfiga, devo dire la verità, perché se riuscisse a azzeccare anche risultati positivi sarei probabilmente un uomo molto ricco e molto generoso. Di solito azzecco le previsioni negative, però insomma c'erano tutti gli elementi per capire che c'era qualcosa che non andava. Ho trovato anche oggi giornali tutti contro Renzi un po' ridicoli, sinceramente, perché i grandi giornali l'hanno incensato, hanno parlato di questa grande scalata verso il potere, e oggi lo liquidano come un gruppo, una lobby, un uomo che faceva affari o li faceva fare o non li vedeva di fianco a lui. Ecco, mi sembra che in Italia dobbiamo recuperare l'equilibrio, quindi non gliel'avevo detto, adesso però dico a tutti quelli che sono usciti di pensare di fare una cosa autonoma, chiara, fresca, insomma, che si chiami Arturo, che si chiami in un altro modo, ma che parli ai cittadini, che parli ai follower e che li faccia diventare protagonisti. Questo ma lei voterà la sfiducia al ministro Lotti? No, io non voto la fiducia al governo, appunto, perché io prima di uscire dal PD sono uscito dalla maggioranza che era guidata dal Partito Democratico. Quindi io, se c'è una mozione di sfiducia, la voto. La votai anche per Maria Elena Boschi, per la stessa ragione, per una ragione politica. Per me, insomma, prima si finisce, prima, nel senso che quando c'era Renzi questa legislatura doveva finire prima, e quindi non ho nessun problema. Vediamo cosa fanno i Modem Pro e cosa fa il Movimento Arturo, glielo chiederemo. Sì, perché secondo me ci vuole una linea, la daranno anche quel Movimento Arturo. Secondo me è ora, perché ci sono 30.000 follower che aspettano. Ecco, Daniele, sei soddisfatto delle risposte? Molto, grazie. Grazie a Giuseppe Civati, e quindi vigileremo anche sul Movimento Arturo. Grazie. Io lo seguo. Grazie, alla prossima occasione, grazie Civati. Arrivederci. Daniele, noi ci ritroviamo tra pochissimo, una breve pausa. Che fatica essere con te al telefono. Mi sento, non so, l'ammirazione ti manco, nei ti manco, mamma dillo, mia. Ti manco, ti ma manco, mi manchi tantissimo. L'ammirazione in questo momento nei confronti di Cruciani, che ha sempre Parenzo al telefono, non so, è sconfinata. La mia già è sempre ma io sconfinata. Sono un po' il tuo parente. Sì, sono però mutatis mutandis non ti conviene, perché insomma, veramente saresti una diminuzio troppo forte. Allora, facciamo così. Dopo queste parole in latino in libertà, una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme. Balliamo, Daniele, dopo? Balliamo? Balliamo. Dai, dopo balliamo, tra poco. Radio Tube. classe, talento, fantasia. Nella magia di un'incantata Parigi scende in pista il Mangio, accompagnato da Roberta Beccarini, a Ballando con le Stelle, Roberto Mancini. Allora, la prima cosa bellissima, non so se si vedeva lo sguardo di Roberto, che guardava la ballerina come dire, o è pazza lei o sono pazzo io, o è pazza lei o sono pazzo. Uno sguardo da perché Shining. Nelle prove gli chiedevo, è giusto così? Guardavi continuamente e stiamo andando. E poi uno scherzo a Giuliana, la voglio inserire, ballereste bene insieme tu e Giuliana De Sio. Pensate a zittare, lo dico. Ragazzi, non prendete tutto sul serio. Daniele, quanto ti è piaciuto veder ballare il Mancio Roberto Mancini a Ballando con le Stelle? Beh, è stato molto simpatico, poi ha un grande stile, insomma, vabbè, poi per me Mancini, come puoi sapere, immaginare, devo dire che io avrei fatto sicuramente di peggio, però ballare, diciamo, se la cavava meglio in campo e come allenatore. Ah, ok, ma no, tu come, sei messo, col come sei messo col qual è la come tua specialità? Mancini, diciamo come Mancini. Ma la tua specialità? Il valzer? Il tango? Ma no, non lo so, forse tipo qualcosa tipo il twist, sono un ragazzo all'antica. Qualcosa tipo il twist. Allora, io... Però la trasmissione è bellissima. Chiederei subito se c'è posto per un ballerino di twist regina di Ballando con le Stelle che abbiamo in linea con noi. Buonasera Mili Carlucci. Buonasera, ma certo che c'è posto per un ballerino di twist, di Ali Galli, di Surf, di quello che volete. Adesso impazza anche il ballo della panza, non so se avete seguito questa cosa del ballo della panza, no? Certo. Per cui c'è proprio posto per tutti, è un vasto mondo accogliente. Che meraviglia, Milly, grazie per averci raggiunto a Radio Tube. È stato un bel momento con Roberto Mancini. A me ha fatto impazzire vedere Mancini e Zazzaroni che si sono detti, arca, siamo diventati bianchi tutti e due, perché... Però guarda che fascino, Roberto con tutto il suo aplomb, con tutta la sua storia, veramente un grande, guarda, lo adoro davvero. E l'ho visto veramente... grande anche in pista, perché non è facile, sai, cioè tu ti ritrovi improvvisamente lì a dover fare cose che non hai mai fatto nella tua vita, ci vuole una freddezza davvero notevole. Ma Mille, ci vuole freddezza anche a condurre Ballando con le Stelle, perché già subito nel primo appuntamento ci sono state delle belle frizioni, dei bei contrasti accesi. Beh, noi abbiamo una giuria che per definizione è una giuria scoppiettante, credo che in televisione sia una delle giurie, ma proprio a livello mondiale, che poi io seguo i talent di tutto il mondo, loro sono veramente un bel gruppo molto pepato. I nostri concorrenti sono, quest'anno c'è un cast di grandi personalità. Ed è chiaro che tu metti una grande personalità che deve sottoporsi al giudizio di gente che non te lo manda a dire e non te lo scrive sulla pergamena, no? Ma te lo dice così, papale quello che pensa, indubbiamente succede qualche cosa, però questo è anche il divertimento del programma. Allora, sentiamo cosa è successo ad esempio con Giuliana De Sio, abbiamo un brevissimo estratto della scorsa puntata di Ballando. Che è successo Giuliana? Niente, è tutto meraviglioso. No. Senti, questo è Mariotto, per favore. Mariotto, sì. È colpa sua, è colpa di Guillermo. Ah, stai chiedendo a me? Sì, sto chiedendo a te. No, è colpa di un gioco al massacro del quale io forse non sono all'altezza psicologicamente. Non voglio essere il piccione del tiro al piccione della situazione, insomma, ecco. Mili, la verità è che o litigano o poi si sposano e fanno i figli. Ma quante coppie sono? Perché cioè, non c'è mezza misura, sono finite le mezze stagioni, signora mia. Eh sì, perché succedono queste cose qua ballando. Beh, succede un po' di tutto. Guarda che il ballo è un elemento rivelatore del carattere in una maniera incredibile, tira fuori tutto. E il fatto di passare tanto tempo abbracciati con una persona può anche far nascere, oltre a magari un grande odio, ma può anche far nascere un grande amore tra i due che passano a scoprire un'affinità. Comunque è una terapia ballare, ma lo è anche singolarmente. Infatti io spero che attraverso tutto questo percorso, che sicuramente non è semplice, Giuliana trovi invece il bandolo della matassa di tutta questa vicenda, perché secondo me può essere una cosa... molto importante per lei, cioè per proprio fare un po' di luce su magari nodi che non ha ancora sciolto, insomma tante cose, ma magari poi ne parleremo stasera, perché adesso dobbiamo vedere una seconda performance che almeno in prova è bellissima. Ah, che meraviglia. Fare ieri sera era proprio bella. Poi sai, un conto è la prova e un conto è quando sei in diretta e lì può succedere altro, ma io incrocio le dita e spero che stasera lei ci mostri Giuliana De Sio come si deve, insomma, come l'abbiamo vista sempre in teatro. E questo secondo me le fa è un calcio d'inizio per un percorso che può essere davvero molto particolare. Io lo so perché lei è una donna piena di ironia, di battute, è incredibile, è una veramente con una grande intelligenza. Daniele, ti chiedo solo un attimo di pazienza perché ho un'altra domanda per Milly, perché Milly ha detto questa sera si sono susseguite delle voci, Maradona c'è, Maradona si è ritirato, Maradona è stato bloccato, ballerà Milly, cosa succederà questa sera? Cosa è successo? Allora, è successo che a un certo punto Maradona non ci sarà, lo abbiamo scoperto giovedì mattina. E quindi nel momento in cui non abbiamo più Maradona abbiamo trovato un altro ballerino per una notte. E io mi sono rivolta ad un'amica che non mi tradisce mai, e ballerina per una notte questa sera sarà Milly Carlucci. La conosco! Ah. No, ti prego, disperazione, perché la difficoltà è che queste sono cose che si fanno con un minimo di preparazione e anche di lucidità, no? Cioè devi arrivare e concentrarti su quello che fai. Io ieri sera ho messo insieme una coreografia, oggi l'ho riprovata e stasera la va come la va. E così deve fare il conduttore, così deve fare il conduttore. Daniele, ma conduceva sui pattini, no? Se non ricordo male. Ma stai parlando di zilioni di anni fa, zilioni no, proprio. No. No, è un altro mondo, un'altra era, un'altra storia e poi insomma, sai, quando tu sei nel mezzo di una trasmissione in cui per tantissimo tempo sei concentrata sugli altri, sei quello che succede, non sei esattamente flessibile, morbido, pronto per andare in pista a ballare, cioè sei un po' irrigidito dallo stress che stai passando, quindi insomma vabbè, ma dai ragazzi, ma la guerra come la guerra, vediamo sì, che succede. Ma sì, un momento di divertimento anche. Oh, Daniele, senti, Marta, vorrei, aspetto la giuria perché chissà che mi fanno stasera. Ah certo, eh beh sì, no, no, due pesi due misure, no, devono no, essere come misure, sono. No, infatti, certo. No, secondo me con Giuliana De Sio sono stati oggettivamente un po' troppo cattivi, perché lei ha questo carattere molto forte, quindi se ne sono un po'... Però io ho visto la trasmissione bellissima, l'avevo vista già altre volte nelle altre edizioni, ho letto che viene definito un talent, ma mi sbaglio o vuole essere una fusione contemporanea tra un talent e un varietà, però un varietà più... Ma sì, cioè... ma sì, perché poi quello conta molto anche lo spettacolo che si fa, alla fine attraverso tutto questo fiume di emozioni però bisogna ballare, e nel ballare noi facciamo tutta una messa in scena, insomma da grande spettacolo, ci proviamo perlomeno, con i mezzi che sono sempre di meno, i soldi che non ci sono più, però insomma l'impegno è quello di cercare di fare una cosa che ti riempie gli occhi, insomma, che ti faccia dire toh, guarda che bello, insomma, un po' di glamour. Allora, c'è, Daniele, hai notato subito una grande attenzione ai social, no? C'è Valerio Scanu, il tuo mito. Io lo adoro, Valerio mi sta troppo simpatico. Allora, Valerio Scanu che fa un po' una sorta di trade union. Tra l'altro, Valerio Scanu ha avuto in passato molti scontri con Selvaggia Lucarelli. E lì si sono confrontati, lui le ha detto sbloccami sui social network perché lei ha bloccato Valerio Scanu. Allora, momento... Anch'io sono stata bloccata su tutti i social network, non so perché, da Selvaggia Lucarelli. Quindi, no. Selvaggia, se sblocchi Valerio Scanu, devi sbloccare anche me a questo punto. Perché io non so cosa ho fatto. Non so cosa le ho fatto. Anch'io sono bloccata dappertutto da Selvaggia Lucarelli. Vabbè, quindi è bello che anche la rete entri. Perché poi uno dice, vabbè, ma la Rai il sabato sera, Rai 1, magari. Invece no, cioè la rete si usa tanto. No, ma scherzi. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto credo 95.000 tra tweet, retweet, Facebook, eccetera, cioè abbiamo fatto un grosso traffico sui social, e questo è molto importante perché è proprio cambiato il modo di comunicare. Oggi c'è tanta gente che si segue la televisione guardandola sul secondo schermo, oppure si guarda e nel frattempo twitta, cioè bisogna abituarsi ad un mondo che è già cambiato, non è che sta cambiando, è già cambiato. È verissimo. Milly, grazie per essere stata con noi. Daniele, te lo prepari il twist allora? Dai, no, Daniele! Mi preparo. Io me lo preparo, ma soprattutto mi preparo a guardare stasera. Beh, sì, ottimo, ottimo, ottimo. Ne vedrete delle belle. Spero di non essere emotivo, perché sai, i video diventano virali quando le cose sono veramente surreali e grottesche. Ecco, spero di non diventare virale. Beh, addirittura. Fantastico. Grazie Milly. Fammi mandare un bacio a Lucia Leotta, che è una mia carissima amica, che certo, è proprio una delle nostre autrici. Esatto, come no, esatto. Certo, ed certo, è proprio innamorata della trasmissione che fai. Grazie, questa è una cosa grazie, bellissima. Grazie Milly, un abbraccio grandissimo. Grazie a voi, a stasera, ciao. Lo dico a bassa voce, merda per stasera. Grazie Milly, ciao. Ciao. Traffico e poi tra poco parleremo, ai noi, ahimè, di calcio tra poco. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... YouTube. Dentro Mertens in posizione regolare, deve uscire Szczęsny. Dries Mertens 1-0. Attenzione, che c'è una scheggia, è Insigne che prova ad andare in area di rigore, uno contro uno, Insigne la mette, corta e tesa, perché c'è stata una partita oggi, no, okay. C'è stata una grande partita, c'è stata una partita, è finita qua? No, non è finita qua, allora facciamo che a me piace l'inno, la partita non mi è piaciuta tanto, oggi c'è stata una partita. Ah vabbè, l'hai guardata Daniele, visto che pioveva? L'ho guardata insieme a Rocco, mio figlio, è stata una partita al cardiopalma nel finale, una roba pazzesca, era una partita importantissima, Roma-Napoli, perché insomma si giocava la possibilità del Napoli di rientrare nella lotta scudetto, della Roma. Se la Roma poteva... ha fatto un gol. Sì, alla fine è successo di però 5 minuti più allucinanti della storia del calcio, ma no, una roba pazzesca. Poi era una settimana dopo polemiche, video contro video, insomma. Sì, allora, siccome volevo capire un po' quello che è successo questa settimana, tra polemiche, Napoli che si è lamentato per la Rai, non lo so, per i commenti, poi continuo a sentire parlare di closing e non ho capito niente di questa cosa di closing. Daniele, non che non mi fidi delle tue spiegazioni, però ho bisogno di spiegazioni più serie, anche perché è un argomento molto, molto serio, delicato. Allora, ho chiamato il mio compagno di cene alla mensa del Sole 24 Ore la sera, perché è il più esperto del Sole 24 Ore in materia di calcio, serissimo. E business. Ma è un quasi un gioco di parole con la sua pagina, con quello di cui si occupa il Sole 24 Ore. Ma lo sentite spessissimo anche a Radio 24, perché è proprio un grande amico di tutti i convocati. Marco Bellinazzo, ciao Marco. Eccomi, detto così è un po' triste, però c'è queste cene alla mensa del sole così. Ma ci divertiamo come i matti, Marco, ma dillo. Ma assolutamente, ma magari chi cioè in mezzo al silenzio e alla noia della... noi facciamo un po' di cinema tutte le sere, facciamo grandi, sempre grandi conversazioni, sì, molto sì, gossip, sì. Vero calcio. Sì, no, parliamo ogni tanto molto... calcio, musica, tanto, ci divertiamo, musica. dai. Posto. Potremmo in realtà aprirlo al pubblico, non so se sì, potremmo intrattenere. Marco, tu l'hai vista per caso la partita questo pomeriggio? No, guarda, io stavo leggendo le cronache dell'Assemblea Nazionale del Popolo e della Conferenza sì, Politica Consultiva in Cina. Certo, dove, capisco. Sai sì, che sì. Xi Jinping, il presidente Xi Jinping, sì, e tu ridi, ma in realtà io insomma sto sempre più attento a questi fenomeni, perché come sai che insomma le politiche cinesi sul calcio sono molto molto vicine all'Italia, in particolare a Milano. Allora io dovete sapere che faccio sempre le battute a Marco Bellinazzo ogni volta che lo incontro, appunto tutte le sere gli dico: e i cinesi come stanno? Perché io penso che i cinesi ci compreranno tutti, e quindi ogni volta chiedo: ma i cinesi come stanno? Io per prepararmi all'incontro appunto stavo leggendo queste cronache per capire come Xi Jinping diventerà eterno, come replicherà i suoi mandati e come arriverà a quel famoso anno che ha indicato il programma pubblicato lo scorso nella scorsa stagione, cioè intorno al 2050, quando la Cina dovrà vincere un campionato del mondo di calcio. E probabilmente vincerà il nostro perché si sarà comprata tutte le squadre. Probabilmente, sicuramente è un evento che ormai bisogna contemplare nel calendario. Allora, vabbè, ho visto questa partita e è patito molto, il mio entusiasmo deriva anche da quel finale, diciamo, che Daniele ricordava. Un po' di tensione. Allora, per entrare in argomento Cina, visto che in queste settimane non possiamo smettere di ascoltare occidentali scarma, questa è la parodia degli autogol. Vendere o non vendere, il dubbio amletico. Attento Silvio, quando vendi all'uomo asiatico, la vendi ad uno e arrivano tre, poco simpatico. Ci sia Toiro anche il Suning, solita sfiga. Ma non resisto al tocco dei massaggi asiatici, all'happy ending dico sì, risposta facile, dilemma inutile. A cercasi una nuova squadra, prendimi, ovunque vada risparmierei, parametri zero prenderei. Rigore de bala, puttana la maiala, io Oops. Scappo con lo Scooters a Hollywood. E insomma, vabbè, un po' di parolaccette nella parodia degli autogol, che però dice tante cose interessanti in merito alla situazione del calcio italiano e la Cina. Marco, ma cos'è questa storia del closing? Lo spieghi a una che come me vorrebbe impararlo in pochi minuti? Allora, guarda, immagina che qualcuno sia venuto a comprare la tua casa, magari che abbiate fatto anche un contratto preliminare ad agosto, e ti abbia dato insomma 100 milioni, diciamo così, 100.000 euro su 520.000 euro, così okay. È incredibile, quindi il proprietario è una bella casa, e al momento conclusivo, per ben due volte, quando doveva fare il passaggio di proprietà, si è presentato, ha detto che non aveva tutti i soldi, e quindi però nel frattempo ti ha dato altri 100.000 euro, molto probabilmente ne depositerà altri 100 da qui a qualche settimana, però non ha ancora tutti i soldi per comprarsi tutta la casa. Allora, il dubbio che tu puoi avere è: questo qui non c'ha i soldi, è un millantatore, però intanto hai in tasca 200.000 euro, e qualora lui, come dire, non arrivasse a concludere, non arrivasse con l'ultimo assegno, ti potresti tenere la casa e 200.000 euro. Ecco, questo è un esempio: chi vende la casa è il Milan, chi compra è questo signor Lee Yong-yong, spero si pronunci così, cioè l'intermediario che si era presentato qualche mese fa, nella scorsa estate, con tante corazzate cinesi, con tante banche, con tante società finanziarie su alleate, che dovevano appunto con un fondo rilevare il Milan, solo che da quel momento a oggi tutte queste grandi potenze finanziarie si sono in qualche modo tirate indietro, sono evaporate, è rimasto solo il signor Lee, sono rimasti 200 milioni, e quindi oggi avrebbe dovuto essere in realtà il primo giorno del Milan cinese, perché l'esclusiva è scaduta ieri. E invece ci troviamo ancora nel guado, e soprattutto si trovano in mezzo, insomma, a una situazione molto poco chiara, milioni di tifosi rossoneri. Quelli interisti, insomma, sono contenti perché loro, i cinesi, li hanno avuti prima, ma è arrivato un colosso come Suning da 50 miliardi di fatturato che ha preso la squadra, e vuole rilanciarla. Vedono, già imparato a parlare italiano, a esultare in italiano, e dall'altro lato di Navigli, insomma, non si capisce bene ancora chi sarà a rilevare il club, con un Berlusconi sempre più arrabbiato e teso e pronto al grande colpo di scena. Insomma, allora, ci sono un po' di tweet molto interessanti. Quello di Gene Gnocchi: individuato il responsabile dell'errore la notte degli Oscar, è lo stesso che ha seguito il closing del Milan. E poi c'è questo account divertente, Papà Van Basten & Co, il closing spiegato a mio figlio, e c'è una sorta di schermata tipo Commodore 64, game over, insert caparra to continue. Daniele, da interista, come la stai vedendo tu? Come la stai vivendo? Contentissimo, immagino. Sì, no, sì, siamo alla parte fortunata della... No, io avevo, non so quanto tempo abbiamo, avevo due curiosità da chiedere. Abbiamo ancora 2 minuti. A Marco al volo, magari lui sceglie quale delle due mi interessa di più. La prima è, ci sono ormai due tipi di società in Italia, quella diciamo più tradizionale con il presidente patron, con la famiglia italiana, non so, Juventus, con la famiglia Agnelli, De Laurentiis al Napoli, insomma lo Tito alla Lazio, e poi invece ci sono le società con capitali stranieri. Come convivono nel potere calcistico italiano? Vengono accettati bene gli stranieri? Questa è la prima curiosità. La seconda è, ma in un calcio sempre più serio come l'attuale, con tanti soldi, ma perché la moviola no? Come ragazzi, strumento? Però hai tutto questo in un minuto, Marco, ce la fai? Vai. Velocemente la moviola con la VAR la stanno sperimentando e potrebbe diventare molto presto anche uno strumento utile come nel rugby, per esempio. E quindi, diciamo, da questo punto di vista si sta riuscendo a fare qualche passo avanti, molto lento, purtroppo. Sull'altra questione, sai, in realtà in questo momento non stanno convivendo queste due anime, in realtà si stanno scontrando. Dove si stanno scontrando? Nella Lega Calcio, dove esiste un regolamento che è cervellotico, è un condominio, anzi peggio di un condominio, nel senso che ognuno, anche chi ha meno millesimi, può alzarsi e dire no a qualsiasi proposta, e quindi si continua a litigare su qualsiasi cosa, non decidere nulla, tant'è che dovevano decidere il nuovo presidente, non lo hanno deciso, ma siamo però alla vigilia della scelta del nuovo presidente della FIGI, che avverrà lunedì, anche lì con un meccanismo molto cervellotico. Se vi andate domani a guardare la pagina di Sport and Business, così facciamo anche un po' di pubblicità. Eccola qua. È tutto spiegato e sfido veramente a chiunque a interpretare questo regolamento, a capire perché, per esempio, i dilettanti, che saranno pure tanti milioni, valgono il 34% dei voti, e la Lega di Serie A, che produce praticamente tutto il fatturato del calcio italiano, ha appena il 12% dei voti. Ecco. Ah, fantastico. Lascio allora con questa domanda. Marco Bellinazzo, domani Sport and Business, il Sole 24 Ore. Daniele, grazie. Per la prossima settimana ti aspetto in studio. Ringrazio Peter Bescapè, ringrazio Cristian Goldoni, e voglio leggere questo tweet di Lala Bufala: sgominata banda di cinesi che truffava gli anziani, offrivano 1 miliardo di euro per comprare squadre di calcio. Al prossimo sabato con Radio Tube.